durante le iniziative che hanno fatto, insomma. Sì, sì, il tema sì. Più o meno è lo stesso, anche diciamo con qualche variante. Si tratta di questa iniziativa che ci sarà sabato e domenica prossima, un'iniziativa insomma che racchiude, cioè, le connotati diciamo della festa, ma non solo. Infatti si aprirà alle 16 con una discussione insomma su, sia su questi diciamo posti verdi che sono sotto costante aggressione di cementificazione e di privatizzazione, ma anche con un'assemblea che richiama il tema dell'antifascismo, perché proprio in questo parco d'Aguzzano il 12 settembre scorso durante la notte c'era praticamente una festa dei ragazzi che davano l'addio all'estate, hanno organizzato questa festa la sera, e durante la notte, quando era poi finito, quando erano rimasti solamente quelli che dovevano diciamo smontare tutto, ripulire il parco eccetera, sono stati aggrediti da delle squadracce fasciste, insomma, che sono stati picchiati in ospedale, insomma la storia penso se sia saputa. Quindi sì, ne abbiamo pure apriremo questa due giorni proprio con un'assemblea su questi temi, proprio sul discorso della fruibilità da parte di questo parco, da parte di tutti e da parte del compresi insomma quei ragazzi che, al di là del tema diciamo dell'antifascismo, quello è proprio un attacco diciamo alla fruibilità, al discorso del parco pubblico. Infatti questa assemblea insomma un incontro dibattito territori liberi e antifascisti, e poi ci saranno diverse altre cose, seguirà una performance su artistiche diciamo sulla lotta in Val di Susa, ci sarà la cena, musica, finirà con un DJ. Dicevo, a questa assemblea chiaramente parteciperanno anche gli aggrediti, ragazzi che ovviamente abbiamo concordato con loro anche queste iniziative, che poi penso che la riproporranno anche un'ulteriore festa, ripeteranno quella festa che è stata così aggredita la prossima settimana. Di domenica insomma ci sarà, alle 9:30 comincerà, ci sarà un'iniziativa di pulizia del parco, è l'ennesima, che cittadini insomma qui del quartiere, organizzati in questo coordinamento per la tutela del parco di Aguzzano, stanno facendo, ripulendo diciamo tutte queste discariche che ci stanno, visto che non lo fa nessuno, e in aperto pure contrasto diciamo col comune, con tutte queste istituzioni che veramente se ne, come abbiamo visto, ci hanno ben altro che pensare. Purtroppo diciamo. Sì. E nel corso della giornata ci sarà un mercatino del baratto dalle 10 fino al tramonto, e alle 10 ci sarà un'assemblea, perché c'è un progetto diciamo in una un'area limitrofa al parco, di fare un orto collettivo, e quindi praticamente un orto urbano di Aguzzano, con la proiezione anche di un filmato, ma una discussione, un progetto che sta abbastanza diciamo avanti, e quindi ci sarà una discussione su questi temi, anche su questo progetto pratico. E poi ci sarà alle 13, il pranzo, musica, spettacoli per bambini, una caccia al tesoro per tutti i bambini, in cui saranno diciamo regalati a tutti i partecipanti una serie di palloni di cuoio che abbiamo rimediato, una cinquantina, 100 palloni che abbiamo, e poi praticamente una musica, la pizzica fino alla sera. Allora, questo diciamo è un po' il programma. Un'esperienza interessante questa di Aguzzano, perché è nata su un discorso, cioè è nata tanti anni fa, quando questo territorio, questo parco che è grande, perché va praticamente da Viale Cante fino a San Basilio, è diventato parco regionale, in cui si è stato fatto un piano d'assetto che doveva, dentro questo parco ci sono 5 casali, vecchi casali appunto agricoli. Il piano d'assetto era la ristrutturazione di questi casali e l'affidamento per diciamo a finalità culturali e sociali, tipo la casa della musica, la casa del teatro. Ora di tutto questo chiaramente non è stato fatto niente, anzi le mire sono state altre. C'è stato anche questo progetto che diciamo partendo da un discorso falsamente così, un discorso demagogico per cui praticamente uno di questi casali doveva costituire un'estensione del carcere di Rebibbia, dove praticamente metterci le madri con i bambini che adesso stanno dentro Rebibbia, che ovviamente anche noi ci ha messo a difficoltà, perché non è che uno può essere contrario, diciamo, a comunque qualsiasi intervento di decarcerizzazione, ma questo non rappresentava una decarcerizzazione, rappresentava solo costruire praticamente un altro, un mini carcere all'interno del parco, con i muri alti 4 metri, le torrette, la cementificazione per le fughe, quindi diciamo era un altro carcere e basta, quindi noi abbiamo fatto un discorso abbastanza chiaro su fare un discorso contro il carcere. Le madri con i bambini non devono stare in carcere, punto. Certo. E non questo, ma era, diciamo, questo era anche un progetto che serviva a muovere una serie di soldi che poi ovviamente avevano altri ora, fruitori. Avevano, diciamo, i ritorni per i vari così partiti, eccetera. Adesso poi, questo progetto non si sa bene se ancora andrà avanti, ma ce ne sono altri in questi casali. Allora, proprio dove si doveva fare questo carcere, diciamo, in questo casale che è stato ristrutturato da anni e che già si sta deteriorando, noi insomma da parecchio che lo stiamo ripulendo, lo stiamo sistemando, lo stiamo mettendo a posto, non c'è ancora acqua e luce, però proprio là, diciamo, facciamo questa festa all'interno del parco. È un'esperienza, dicevo, interessante, perché raccoglie, diciamo, tutti i livelli generazionali, dai ragazzi che dell'assemblea di D'Aguzzano che si vedono a studiare nella biblioteca del centro ecologico, fino insomma alle persone anziane, ai pensionati che tengono a questo parco e se ne curano. Una logica è che comunque non un dato che, diciamo, da questa situazione i partiti ne devono stare comunque fuori, e quindi diciamo ci saranno questi due giorni per cui ci stiamo dando da fare. Abbiamo diffuso tutta la storia, cosa abbastanza vissuta qui in questi quartieri limitrofi che sono Rebibbia, sono tutta la parte di Viale Cante, Viale Marx, diciamo, fino ad arrivare a San Basilio, cioè tutti i quartieri che praticamente circondano il parco. E quindi diciamo questo è un po' il quadro, mi sarò sicuramente dimenticato un po' di cose, ma insomma questo è l'ambito. Dicevo, comincia, diciamo, sabato alle 4 con questa assemblea su territori liberi ed antifascisti, anche in merito all'episodio che c'è stato il 12 settembre. Senti, una cosa però è giusto. Non ti sento. Allora adesso dovresti sentirmi meglio. Hai ricordato che il parco è molto grande, per cui tutto questo... Non ti sento bene però, non so perché. Ecco, adesso proviamo, forse andiamo meglio. Eccoci. Ci dovresti sentire. E, diciamo, hai ricordato che il parco è molto grande, per cui dov'è che si tengono effettivamente allora, queste iniziative? Noi metteremo, perché fra l'altro il casale dove ci sarà questo cosa è il casale Alba 2, si chiama, e praticamente le entrate sono diverse. L'entrata, diciamo, più diciamo l'entrata forse più comoda è quello che si trova davanti al centro di cultura ecologico, che è proprio una traversa, diciamo, di dove si fa il mercatino anche biologico, sabato del mese che non mi ricordo qual è, e quindi l'entrata è lì, praticamente una traversa di Viale Cante. Tanto comunque ci sono i manifesti qua attaccati dappertutto. Ora, se vuoi sapere veramente l'indirizzo preciso... Ah, comunque già abbiamo capito come ci si arriva, ecco, questa è la cosa importante. Sì, guarda, le entrate nel parco sono da via Fermocorni, da via Schopenhauer, da via Gina Mazza, da via Emanuele Paternò di Sesto, insomma basta riprendere la, o la metro di Rebibbia, riscendere a Rebibbia, o gli autobus sono il 311, 341, 350. Diciamo che forse l'entrata più semplice è quella via Fermocorni, perché chiaramente il parco è circondato da, da tutti i vari quartieri, quindi si può entrare da diverse parti, però la parte più vicina, diciamo, è quella della parte di Viale Canto, forse. Va benissimo. Via Bartolongo, pure vicino da, da quelle parti là, insomma, se ci si entra. Ok? Ok, ti ringraziamo. Allora, l'appuntamento è per domani. Sì, domani alle 4 e poi ci sarà tutta la giornata di domenica fino al tramonto. E poi, insomma, avremo modo di sentirci anche nel weekend a questo punto, perché i due giorni sono piuttosto pieni. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Allora, arrivederci in questo weekend. Ciao. Ciao.